Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera e benvenuti alla nona puntata di Rock Wave Live, Io mi racconto. Questa sera ai microfoni di Radio Cooperativa con Gilles Facchinelli ho il piacere di dare il benvenuto, partendo dallo studio, a Ilaria Ogliosi, che ci parlerà di come la musica per lei sia veramente motivo di vita. Ciao Ilaria, benvenuta. Ciao. Benvenuta a Liberty. Buonasera. Subito la sua voce squillante per presentarci il suo primo inedito Senza Senso, che anche questa canzone ha una sua storia, e Carlo Borghesio che ci presenterà il suo inedito Dove Sei. Ciao Carlo. Poi in diretta telefonica da Genova Gianluca Corrao. Ciao Gianluca. Ciao a tutti, buonasera, grazie. Io volevo iniziare a questo punto a parlare di Ilaria. Ilaria, perché qui Ilaria? Io ho avuto modo di essere in giuria una sera a Loreggia a un contest musicale. A un certo punto presentano Ilaria e canta la sua canzone. A me è emozionato tantissimo, soprattutto per un messaggio che Ilaria ha voluto mandare a tutti noi, per se stessa, ma anche per chi si trova in determinate situazioni critiche, pesanti, ma la forza di volontà e la musica a volte sa dare un aiuto. Ilaria, posso cominciare? Mm-hmm. Io partirei da qui, dal 4 aprile 2017, perché in quella data la tua vita subisce una svolta. Prendo spunto da due articoli di giornale, uno appunto dal 4 aprile 2007, dalla Tribuna di Treviso e Il Mattino di Padova, che dice: auto contro tir. Ragazza grave, ad averla peggio nello scontro è stata Ilaria Ogliosi, 21 anni. Trasportata all'ospedale di Castelfranco, la 21enne è parsa subito in condizioni gravi. Subito dopo il ricovero, la ragazza è entrata in coma. Poi però passo direttamente all'8 gennaio 2011, un altro articolo sul giornale, dalla Tribuna di Treviso, che dice: rischiò di morire, Ilaria torna a cantare. Vittima di 2 anni fa di un grave incidente, ha vinto la sfida con i foniatri, che le aveva detto appunto: non ce la farai più, Ilaria, a cantare. Hai vita, ma non canterai più. E quindi, Ilaria, cominciamo da questi due punti. Raccontaci te un po' la tua storia. Il 4 aprile del 2007... ho avuto questo tragico incidente. Guidava una mia ex amica, ero io passeggera, non si è fermata al semaforo lampeggiante, al semaforo di Campagna Alta siamo andate oltre il semaforo e ci è venuto addosso un tir, un camion di bufale. La mia amica sta bene, l'hanno tenuta solo un giorno in osservazione, ma poi tutto è passato. Invece a me è andata un po' diversamente, perché sono stata trasportata subito all'ospedale di Castelfranco Veneto e là ho salutato mia mamma. Gli hanno detto: tranquilla, sua figlia sta bene, la teniamo qua solo per fargli gli accertamenti del caso. Tra gli accertamenti c'era anche un attacco. Al svolgersi dell'attacco ho iniziato a vomitare sangue perché c'era un ematoma cerebrale in corso. Da lì sono entrata direttamente in coma. Ci sono stata per 20 giorni e al risveglio dal mio coma ero emiplegica, cioè non muovevo più la parte destra del corpo. La mano soprattutto è la zona più colpita del mio corpo, perché il braccio sì, riesco ad alzarlo e allargarlo, ma la mano proprio non riesco a fare niente perché mi manca l'attività di fino. cioè tagliarmi la carne o legarmi i capelli, mm-hmm. tenere in braccio qualcosa. Vorrei però partire un attimo anche dal punto in cui tu sei entrata in coma. In pratica tu non, logicamente, non sentivi, non parlavi, però qualcuno sicuramente ti è stato vicino e ha avuto questa... Sapendo che eri appassionata di musica. Sì, mi è stata molto di aiuto la musica, perché i miei genitori, sapendo che mi piaceva ascoltare la musica, avevano messo su un CD che rimettevano più volte con le mie canzoni da me interpretate, tra cui la canzone The Power of Love di Celine Dion. Con quella ho aperto gli occhi. Allora, io direi che facciamo subito una pausa musicale e direi di proporre questa canzone, The Power of Love. Ma perché ti chiedo proprio questa canzone? Perché era l'ultima canzone che avevo registrato, che in più aveva questo messaggio del potere dell'amore. Tengo a precisare una cosa, con Ilaria sono argomenti difficili, ricordi difficili, però tante volte, cioè sempre, io non entro mai nella vita privata delle persone, però capita, come nel caso di Ilaria, che ti dice no, io voglio parlarne perché se questo è l'obiettivo che ho raggiunto, lo devo anche per il percorso che ho fatto. E, brava Ilaria. Ecco. Grazie. Grande Ilaria, ciao, buonasera. Questo è Gianluca, dopo... Mi stavo emozionando tantissimo. Sì, lo puoi dire. Complimenti, continua così, grande veramente, molto brava, mi ha emozionato, grande veramente. Ecco, allora, ascoltiamoci la tua canzone, emozioniamoci un po' con te e poi torneremo in diretta a parlare ancora un po' di te, Ilaria. The whispers in the morning. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Ecco, nel frattempo ci ha raggiunti anche Flora Vona, che richiameremo tra qualche minuto. Allora, Ilaria, risentire questa canzone? Mi fa un certo effetto, ma perché vorrei cantarla io, di nuovo. Invece non posso più, almeno non in tonalità originale. Sì. Perché oltre alla parte paralizzata del mio corpo, si è paralizzato anche la corda vocale. Per questo parlo sempre con la voce rauca, però la passione per il canto non si è mai spenta. E adesso canto canzoni di Gianna Nannini o Per te, insomma. O di Pausini, come ti ho sentita cantare. Sì, perché la Pausini è il mio tasto dolente, è la mia cantante preferita. E così, insomma, sono andata anche da il professore Fussi, il più grande foniatra d'Italia, che segue anche la Pausini, appunto. Mi ha detto che la corda era paralizzata e si era andata a fare una bella vacanza. Ecco. Però io non ho perso la speranza e ho cantato molte volte canzoni di Laura Pausini, anche perché adesso ho due figli, per sgridarli gli urlo contro con tutta la voce che ho. In effetti mi ero messo un appunto più avanti dei figli che sono arrivati, che quindi sicuramente ti hanno dato una mano. Il potere dei figli. Il potere dei figli, vero Lisa? Sì. Io ti dico anche questo, uno dei motivi per cui fortemente ti ho voluto qui questa sera, e dopo ti do un attimo di pausa, ti ho voluto qui perché cioè, tu porti qui la tua grinta, e la tua grinta e la speranza, come dicevi tu prima, per tante persone che magari si trovano nella tua situazione e magari per vari motivi non ci credono che qualcosa in più sia possibile. No, non bisogna mollare mai. Per questo vado su tante scuole a fare prevenzioni per gli incidenti stradali, per dire che basta una semplice disattenzione per stravolgere la vita, ma che con duro lavoro e sacrificio ci si può rialzare, sempre e comunque. Allora, ti do un attimo di pausa. Grazie. Ilaria, è emozionatissima. Prima di passare a Flora, volevate chiedere qualcosa a Ilaria, Carlo, Liberty? No, volevo semplicemente farle i complimenti. È davvero una bella storia, anche il fatto che comunque vada per le scuole. È bello, passa un bellissimo messaggio e complimenti. Esatto. Lisa? Vogliamo altre così. Sicuramente. E io sono una sostenitrice di chi canta anche in diverse tonalità, perché ognuno di noi ha tante cose da dire e non importa in che tonalità, l'importante è il messaggio e le emozioni che dà. Anche perché Ilaria, Liberty, anche lei, lo dico io, ho un timbro non alto. No, non volevo dire quello. Anche a Liberty la musica ha aiutato tantissimo, è stata una grandissima per quello che io, per quel poco che posso conoscerla, perché sicuramente non posso dire che conosco così bene Liberty, ma per quello che l'ho seguita sicuramente la musica anche per lei è stato un supporto molto forte. Gianluca, prima di salutare la Flora Vona, tu volevi dire qualcosa, Ilaria? Sì, volevo dire che comunque mi ha emozionato in tutto per tutto, e appunto, come avete detto in studio, la sua forza e la sua determinazione è una cosa grandissima, quindi ti ringrazio comunque già di essere qua stasera ad ascoltarti, perché c'è sempre da imparare dalle persone, no? Quindi già da stasera anche con la tua storia mi hai insegnato qualcosa. Quindi bisogna sempre andare avanti e lottare, perché comunque in ognuno di noi, chi più chi meno, c'è sempre qualcosa da raccontare, no? Nel bene e nel male. Quindi, e poi credere sempre nei propri sogni e continuare ad andare avanti, perché anch'io comunque nel mio piccolo sacrifici l'ho sempre fatto e ho sempre creduto nei miei sogni e nelle mie passioni, che anche per me è la musica. Certo. Quindi sono contento di essere in diretta telefonica, vabbè, con voi, perché comunque mi emoziona la tua storia, mi emoziona anche il tuo modo di fare, anche il fatto che vai a dire le tue cose nelle scuole, della prevenzione appunto degli incidenti, perché è una cosa secondo me importantissima, perché basta appunto una disattenzione, il cellulare nelle mani e tutto, che a volte si possono creare in quegli attimi delle grosse tragedie. Quindi sono contento nel senso di quello che fai, perché è da onorare, quindi brava. Anche lei al suo traguardo, come te, Ellen? Ma diciamo che il traguardo, guarda, poi ti spiegherò, poi, ma il traguardo non esiste, no? Perché il traguardo credo che non lo raggiungeremo mai, però io ho voluto spiegare poi il mio traguardo, che diciamo che alla mia età, 41 anni, è la consapevolezza di voler bene alla gente che mi circonda e alla gente che tiene a me. Quindi il messaggio era quello del traguardo. Bene, Gianluca, io adesso vorrei salutare Flora, perché anche lei è impegnatissima. Flora, ci sei? Ci sono, come no, eccoci. Ciao. Buonasera. Flora. Ciao Flora, carissima, benvenuta qui con noi a Radio Cooperativa e Rockwave Live, io mi racconto. Grazie, come sono contenta di questa intervista così. Certo. Allora, guarda, io ti porto i saluti intanto di Liberty. Ciao. Di Carlo. Ciao. Un saluto di cambio con affetto. Da Ilaria, che tu non hai avuto modo di sentire la sua storia. Ciao. Ho capito che hai un messaggio. Questa cosa mi è arrivata e sono adesso molto curiosa di sapere di cosa si tratta. Ecco. Flora, io con te devo correre, perché so che devi scappare, abbiamo bruciato un po' di tempo per i tuoi numerosi impegni. Perché? Perché devo dire che non è una scusante di Flora, è veramente molto impegnata. Perché? Perché lei fa l'attrice, fa la modella, fa la scrittrice, canta, insegna e fa la mamma. Tante cose faccio, tante cose, cerco di farle tutte bene, cerco, mi impegno, poi insomma, come dire. Ho dimenticato qualcosa, no Flora? De gustibus. No, diciamo, mi do tanto da fare, perché insomma, prima di tutto capisci bene che una mamma attenta, le mamme possono capirmi, hanno bisogno di molto tempo a disposizione da dedicare ai propri bambini. Poi insomma io scrivo di notte, ho l'ispirazione diciamo notturna, spesso e volentieri insomma posso fare qualche riposino durante il giorno proprio perché poi di notte mi sveglio per ho tante idee, ho voglia di scrivere. Tra l'altro qui tranne Carlo, che è giovanissimo, gli auguro anche a lui è presto di avere dei figli, il resto qua condividi sia con Liberty che con Ilaria che con Gianluca, che è in diretta da Genova. Tutti quanti hanno figli e tutti quanti li amano in una maniera assoluta. Allora mi possono capire. Esatto. Tra l'altro Liberty la vedo sempre, costantemente assieme alla figlia. Cosa vuoi? È una dipendenza come la musica. Energia, vero Liberty? Molta. Ci danno. Flora, io vorrei dire due parole proprio velocissime sulla tua attività di attrice, proprio veloce. Perché tu fai teatro, fai cinema, fai TV, però voglio magari ricordare anche dove possono magari vederti. Tu hai fatto anche un film ultimamente che si chiama I Fiori del Male, se non mi sbaglio, lo scorso anno, no? Sì, lo scorso anno, che fu anche candidato al David di Donatello, dove interpreto tre donne della storiografia, quindi realmente esistite: Veronica Franco, la poetessa rinascimentale, Margherita Gautier, la celebre signora delle camelie, e infine Mataria, agente segreto olandese che fu poi fucilata durante la prima guerra mondiale. Fu candidato poi al David di Donatello, trasmesso al New York Film Festival, adesso a breve, l'anno prossimo su Sky. Ecco. E poi adesso in attesa della pubblicazione a febbraio del mio primo romanzo, dal titolo Irene, Ecco, quindi ho dimenticato qualcosa, vedi, l'avevo detto. L'avevi detto, come no, sei stato anzi veramente esaustivo, preciso. E la storia di un'adolescente orfana che, insomma, per raggiungere un proprio sogno lascia questo orfanotrofio per poi andare libera per le vie di Ginevra a conquistare, diciamo, questi teatri, perché lei ha la passione della recitazione. Quindi è ambientato nel 1945 e quindi, insomma, io sono poliedrica perché, diciamo, come dire, la cosa è nata molto naturalmente. Ti apro questa parentesi perché naturalmente tu hai detto che faccio tante cose, sì, è vero, ma soprattutto diciamo, questa cosa è nata spontaneamente proprio perché sono cresciuta in una famiglia di artisti dove tutto era molto, diciamo, tranquillo, quotidiano, era pane quotidiano. Mia nonna plurilaureata, che aveva però la passione per il teatro e per la scrittura, quindi praticamente mi ha plasmata, mi ha trasmesso lei tutte queste belle passioni. Mia madre pure, insomma, disegna, ama la musica, mio fratello compone, l'altra mia sorella canta, insomma siamo un po' tutti amanti dell'arte a 360 certo. gradi, certo. Quindi, insomma, la cosa è nata veramente in modo molto naturale e spontaneo. Quando mi chiedono ti senti più andare verso quella direzione, io sinceramente, come non dire, lo sai dire. Rispondo rispondo che sicuramente il primo amore è stata la musica. No, proprio il primo amore, infatti io, insomma, come dire, nasco come cantante, poi tutte le altre attività sono subentrate proprio successivamente. Io vorrei parlare adesso intanto del tuo inedito, L'Alfabeto, perché sì, tu stai realizzando un progetto iniziato con Gianni Donzelli. Donzelli ed Enzo Leonforro, esatto, ovvero gli Audio 2. Figa, sì, lanciati tra l'altro, che hanno scritto canzoni per Mina e lanciati proprio dal figlio sale, Massimiliano Pani. Riflessi. Flora, io direi, se tu mi dici due parole su questa canzone, dopodiché facciamo ascoltare questo tuo inedito. Ti ringrazio. Allora, L'Alfabeto nasce appunto da questa collaborazione, questo feat con gli Audio 2. Infatti cantiamo assieme, canto assieme a Gianni Donzelli, il cantante del duo storico, sì. E L'Alfabeto è un codice segreto, penso che spesso nelle coppie, insomma, non ci si comprende perché certe cose non vengono dette ed è soltanto un discorso legato a una comunicazione a volte non verbale, le cose non vengono dette o per orgoglio o perché si aspetta sempre che sia l'altro a fare la prima monta. Allora L'Alfabeto è un codice segreto proprio per questo, perché in qualche modo, diciamo, questa donna lancia degli input al proprio partner affinché vengano recepiti. Se lui non riuscirà ad aprire questo libro, cioè ovvero la sua anima, l'anima della propria donna, vorrà dire che non avrà mai letto questo libro. Certo. E quindi L'Alfabeto, ecco, è la mia collaborazione feat Audio 2. Ci saranno poi all'interno dell'album che uscirà il 25 di dicembre, troverete su tutti i digital store, ci sarà anche il Resti Tu oltre all'Alfabeto, il Resti Tu scritto da Gianni Donzelli, mm-hmm. scritto da Gianni Donzelli, e insomma sono 9 brani inediti, sì. e 2 cover, sì. tra cui una di Mina, la musica è finita, che potete già ascoltare su YouTube cliccando il mio nome Flora Vona, la musica è finita. È completamente riarrangiato il brano, interpretato sotto una chiave diversa, e poi uscirà anche sempre all'interno dell'album anche un altro brano, un'altra cover, Io domani, lo ricordi Io domani? Sì, sì, sì. Rivisitato sempre, e all'interno dell'album anche l'altro brano scritto da Gianni Donzelli, il cantante degli Audio 2, e Resti Tu. E insomma, quindi, come puoi vedere, insomma, è un c'è in fermento un po' di movimento sia certo. per quanto riguarda la musica, poi l'anno prossimo a febbraio il romanzo, e insomma poi ci sono tanti progetti che sinteticamente apprendo. Sinteticamente sei riuscita un po' a mettere assieme, a recuperare i tempi, mettere assieme tutte le domande che volevo farti. Sei stata bravissima, Flora. Ok. Allora, bene. Io direi intanto di ascoltarci la tua canzone, l'alfabeto, sì? Flora Vona. Ciliegi in fiore di colore rosa tenue, rossi come frutti infine, un nocciolo ci tiene insieme, assertivi per natura, ma indissolubilmente uniti oramai. Con l'alfabeto dei pensieri miei ho scritto tamo e non so se mai lo dirò. A te che credi, credi che dire tu come stai sia tutto per te. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Eccoci qui, Flora. Allora. Bravissima. Vero? Ti è piaciuta? Sì, eccomi. Sei stata bravissima. Ah, grazie. Vi è piaciuto il brano? Sì. Sì, a me molto. Al primo ascolto. Ok, io vi suggerisco anche di ascoltare Briciole di emozioni, che è un pop jazz. E io vi aspetto anche sulla pagina pubblica tutti gli ascoltatori, così potete visionare un po' di cose che mi riguardano. Certo. Che tu sai che era una canzone che volevo fare ascoltare questa sera. Sì, me l'avevi detto che ti era piaciuta. Troppo bella, sì. Troppo bella, perché è una canzone che è bello il fondo, l'arrangiamento come jazz, ma soprattutto esalta molto anche la tua voce. Ok, Flora? Allora, grazie allora. Grazie a te, Flora. Volevo però, prima di salutarti, sono tutti ragazzi che, bene o male, Ilaria per un motivo Liberty e Carlo per un altro, e Gianluca magari no, perché anche lui è abbastanza navigato, però volevo che tu dicessi dall'alto della tua esperienza qualcosa a questi ragazzi che iniziano questa avventura. Sì, allora la prima cosa che dico è di trovare la propria chiave di lettura, che non sia omologata a quella degli altri, perché in qualche modo bisogna sicuramente essere spronati dagli artisti che ci piacciono di più, però mai emulare, essere originali, essere noi stessi con i nostri pregi e difetti, diciamo, dal punto di vista artistico, perché a volte c'è proprio, come so dire, la particolarità, la diversità, che in qualche modo è quella che suscita di più l'attenzione, no? Nel pubblico. E poi sicuramente di essere sinceri con se stessi e con il pubblico, perché poi alla fine l'autenticità paga. Certo. Quindi, grazie mille. Essere sempre audaci e sempre alla ricerca di domande, essere molto curiosi, e quindi questa cosa, insomma, in qualche modo ci dà la verve e la passione per andare sempre di più a scavare dentro noi stessi. Il giusto spirito. Ecco, era una cosa che tra l'altro ti aveva detto anche Gianni Donzelli, ma che comunque ne riparleremo, grosso modo aveva detto proprio questo. Lisa, vuoi salutare Flora? Sì, la saluto, io ho già iniziato a seguirla, che così mi sono presa avanti, e quindi sono proprio curiosa di sentire anche l'altra canzone, perché come stile ho idea che mi piacerà molto. Ti ringrazio. Grazie e a te. Allora, grazie per lo spazio e ci risentiamo presto. Grazie, allora, Flora. Un bacio a tutti. Tanta energia positiva. Ciao, auguri. Ciao. Grazie a Flora. Lisa, direi di fare una parentesi con te. Anzi, volevo prima chiedere a Gianluca, hai sentito la canzone di Flora? Sì, sì, molto carina, molto orecchiabile, quindi mi è piaciuta anche a me. E poi mi è piaciuto il discorso che ha fatto, che bisogna comunque essere sempre sinceri e creare un proprio stile per non essere catalogati uguale a un altro artista, come in radio. Magari appunto evitare di fare dei brani che assomigliano tanto a degli artisti famosi, che magari in radio possono dire magari assomiglia a quell'artista, cercare sempre di avere una propria identicità e una propria particolarità. Quindi, come ha detto lei, sono d'accordo. Quindi. Liberty. Parlando di gente un po' fuori dal comune, passiamo a me, quindi giustamente. Sei straordinaria, Liberty. Ascolta. Io inizierei così, per chi non ti conosce, una presentazione velocissima, velocissima. Ma mi chiamo Lisa, ho 34 anni, quindi ormai non sono più tanto giovane, sono mamma di una bambina meravigliosa di 10 anni e la musica io direi proprio che mi ha salvato la vita insieme a mia figlia. Questo per quello che ti dicevo prima, un po' in aria. Io sono stato testimone dell'evoluzione di questa canzone, posso dirlo, no? Certo che sì. Lisa, perché l'ho sentita per la prima volta con i suoi alti, con i suoi bassi. Poi però è successo qualcosa di particolare, da una canzone che poteva essere piacere o non piacere è diventata una bella canzone. A me piace dire questo, allora sicuramente alti, bassi, cose positive e cose negative, però è una canzone che assolutamente mi rappresenta anche in questo, nel senso che chi mi conosce sa che deve gestirmi nel bene e nel male, perché sono una persona estremamente diretta e fastidiosamente sincera, quindi questo è quanto. Giusto. Quindi questo brano è proprio così, e o lo ami o lo odi fin da subito, quindi è vero, è nata un po' come una cosa magari che aveva bisogno di essere sistemata, però ovviamente come tutte le cose che sono magari un po' premature, a volte per il desiderio di portarle fuori per dire dei messaggi, inizia a proporle. Poi ti scontri con delle persone che magari ti dicono no, guarda che così non può andare, e inizi a pensare. A volte te la prendi pure perché dici magari questo mondo ce l'ha sempre con me, e poi inizi a dire va bene, perfetto, non vi piace, allora adesso la cambiamo e facciamo in modo che vi piaccia per forza. E così ho iniziato a proporla e a sistemarla. Finché praticamente il cambiamento grande è avvenuto durante un concorso che io adoro, che è il Vota le Voci, perché è un concorso che a parte Sandro Sartori e Matteo Pisato. Esatto, a parte appunto i due organizzatori che secondo me fanno un ottimo lavoro, ti permette di conoscere un sacco di persone e di fare un percorso e proporti in varie location qui della zona e quindi portare il tuo inedito un po' a spasso per il tuo territorio. E lì mi sono veramente divertita e messa alla prova. Ovviamente ci sono state le serate in cui è andata meglio, le serate in cui è andata peggio. Alla fine ho vinto la sezione inediti. La cosa che però ha stravolto il tutto è stato che in giuria c'era Antonio Frodella e in maniera un po' inaspettata mi ha dato l'opportunità di un contratto discografico con la Free Recording Studio che appunto gestisce lui. E da lì le cose sono cambiate. Da lì è iniziato un percorso con molti alti e bassi, anche questo, perché giustamente sì, sennò non sarei io. E adesso stiamo lavorando a un CD. Quindi ci sono molti altri inediti in lavorazione e diciamo che Senza Senso è stato il punto di svolta, ecco, persona che faceva solamente cover a cantautrice. Certo. Ecco, questo è quanto, insomma. Certo. Questo lavoro uscirà presto? Uscirà l'anno prossimo sicuramente e quindi sì, non tra molto tempo. Sempre su base rock o sì, torniamo al pop? Diciamo che c'è un po' perché tutto dello stesso genere non mi piaceva perché sono una persona che si annoia molto facilmente, quindi ho preferito fare rock pop. Ecco, diciamo che anche lì abbiamo messo un po' di sfaccettature di quello che sono io nella vita e quindi poi sì, l'ho riproposto anche nella musica, ecco. Comunque Antonio ci ha centrato perché io la prima volta che ho sentito la tua canzone, rivista, riarrangiata, eccetera, ho detto questa è Lisa. Sì, diciamo che Antonio, come piace dire a me, è andato oltre un po' a magari la mia immagine e al mio modo di fare, magari a volte un po' impulsivo. Però lui è andato molto oltre e ha capito un po' quello che c'era dietro a tutto questo. E infatti lo ringrazio molto per questo. Questo non significa che non ci scanniamo, non litighiamo e quant'altro, però anche lì si cresce, insomma. Certo, ecco. Certo. Il risultato alla fine, esatto, il fine, come si dice, giustifica i mezzi. Assolutamente. Ecco. Allora approfitto di salutare anch'io Antonio Frodella. Ciao Antonio e grazie anche per aver saputo esaltare queste doti di Liberty. Io ti chiamo così, perché questo adesso sì, è il tuo nome ufficiale. Allora io direi di proporre questa sì, canzone, di farla ascoltare, perché sicuramente qualcuno è curioso e dirà ma che canzone sarà? Esatto. Ve la presento subito. Senza Senso, lei è Liberty. Se non ci Radio Cooperativa. Rieccoci in diretta qui a Radio Cooperativa, con me questa sera Liberty, che abbiamo appena ascoltato il suo inedito Senza Senso, Carlo Borghesio, e Ilaria Ogliosi, e in diretta telefonica da Genova Gianluca Corrao. Gianluca, cosa dici di questa canzone? Ma devo dire, ti faccio i complimenti, Liberty, perché il sound è carino e il ritornello ti rimane comunque in testa, quindi hai vinto. Grazie. Devo dire veramente che mi ha preso questo sound, quindi continua così, dai. Io invece avevo una domanda. Sì, vai. Ero incuriosito dal sapere se scrivi i testi te o... Oh yes. Tutti. Oh yes. Era una mia curiosità, viste le parole. Orgogliosamente sì, sì, esatto, con che, un sì convinto. Con carica. Bravo. No, ero incuriosito un attimino dalle parole del ritornello, sai, della pubblicità. Allora ero sì, nella curioso. Tua città, esatto. Non fanno mai la pubblicità, ti rimane, esatto, in testa. Ti rimane in testa, quindi ero curioso di capire se era cosa sua, insomma, se era uscito da lei o se era stata aiutata, sì, diciamo, sì, no, dalla parte del testo. Ma poi vedi, sicuramente ci sono delle cose in cui mi sono fatta aiutare, perché poi io sarei un po' un fiume in piena e quando scrivo, okay, scriverei migliaia di cose, quindi poi a volte mi ritrovo con cose infinite. E in un tre minuti non ci stanno. In tre minuti non ci stanno e sì, quindi sì, a volte sì, dico ok, devo scrivere un romanzo, una canzone, perfetto, allora devo tagliare, quindi okay, poi a volte mi faccio anche aiutare. Sì, però le parole, i concetti sono tuoi. I concetti sono miei e sto lavorando molto nel dire con poche parole tutto quello che voglio, okay, dire, che è la cosa più difficile in assoluto per me. Beh, perché concordo. Io sarei una persona che proprio... ti rimbambisce di parole, ecco, se vogliamo dire. Però, insomma, poi col tempo e l'età impari che poche parole a volte sono molto più efficaci di un discorso tanto lungo. Giuste. Esatto. Un riassunto. Esatto. Tu cosa dici di questa canzone, Ilaria? Bella, bella. Molto bella. Grintosa. Lo era anche prima, cioè, perché lei, quando l'ho vista, questa grinta non l'ha persa. È sempre quella di prima. Solo che ha cambiato proprio la canzone, e ne è convinta anche lei, perché... Sì, assolutamente, e poi Antonio appunto musicalmente ha fatto proprio un bel lavoro, ha tirato fuori proprio quello che volevo dal pezzo, certo, e quindi poi la cosa mi è, certo, mi è piaciuta molto. Gli chiedevo ogni tanto, Antonio come va Lisa? Io sono impegnativa, lo sapeva. Ti dico la verità, è un po' dura con Lisa, ma è una sfida. Io non cedo, lei non cede, quindi andiamo avanti. Poi la cosa che amo di più di questa canzone è il titolo senza senso, che è in contrapposizione con il testo, perché in realtà è tutto fuorché senza senso, cioè ogni parola è studiata appositamente, certo, per dire qualcosa. Infatti tante persone mi dicono: perché senza senso? Tu cerca di capire il perché del senza senso, certo, e poi ne riparliamo. Certo, ma tu anche l'hai scritto su un post, no? Sì, ma infatti senso. A volte infatti... Lo vuoi dire? Perché a me fa piacere se lo dici. No, nel senso che io dico, tante volte mi sono un po' arrabbiata nel corso di questi anni, perché le persone hanno questa brutta caratteristica di fermarsi a non guardarti al di là del tuo aspetto, non ti guardano negli occhi, non guardano quello che puoi provare, quello che puoi sentire, no? Vedono questa immagine, vedono il tuo comportamento e giudicano, tutti giudicano. E io mi arrabbiavo come una pazza e quindi mi ritrovavo che poi alla fine restavo male solo io e gli altri, niente. Poi succedeva che, appunto, come ho detto prima, proprio perché la musica mi ha salvato la vita, mi ritrovavo che il più delle volte, nel pieno dei miei problemi, quando si va a toccare proprio il fondo, ti ritrovi che cerchi un appiglio e questo appiglio non lo trovi da nessuna parte. Io lo cercavo nelle persone, tendevo questa mano e nessuno arrivava lì a darmi questa mano. Io dicevo: ma è possibile che nessuno vede che non ce la sto facendo? E quindi poi a un certo punto ho iniziato a dire: benissimo, se nessuno mi aiuta mi devo arrangiare. E quindi poi questo famoso dottore che cito nella canzone, sì, che dice: c'è un dottore che possa curare la mia anima, in realtà io l'ho trovato nella musica. E quando dico senza senso, dico che senza senso sono io, sono gli altri, sono tutte quelle persone che, come dire, si reagiscono a tutta questa indifferenza, a tutte le persone che appunto si accontentano di apparire e basta e di non dare niente all'altro, insomma. Quindi questo non ha senso per me. Bene. Ecco. È il bello di sentire un po' il racconto, no? Ilaria, un po' di tutti voi. Gianluca, io passerei a te a questo punto e parliamo un po' anche della tua musica, del tuo ultimo inedito, Il Traguardo. Sì, infatti, vabbè, praticamente per chi ancora non avesse ascoltato la canzone, tanti, come dicono, mi hanno chiesto all'iPod senza senso cosa voleva dire, tanti mi hanno detto: Il Traguardo cosa significa? Io Il Traguardo, come ti ho accennato prima, non è necessariamente avere successo nella musica o nel lavoro o nel quotidiano, ma è per me amare la mia gente, la mia famiglia, i miei amici, la gente appunto che mi circonda, che tiene a me, e volergli bene e apprezzare le piccole cose. E poi ho aperto una parentesi che a mia madre, che non avevo mai dedicato un brano, che appunto dice il pezzo: mia madre non c'è ma per me c'è, quindi per i nostri cari quando vengono a mancare comunque rimangono sempre nei nostri cuori e nel nostro quotidiano, quindi per me mia madre è come se fosse sempre dentro di me, quindi per me c'è. Quindi il messaggio vuole dire anche apprezzare le piccole cose, come appunto l'abbraccio di tuo figlio o la carezza di tua moglie quando arrivi a casa la sera dal lavoro, nella giornata storta, e appunto apprezzare queste piccole cose in una società dove si corre tutto in fretta e si pensa sempre a noi stessi e non agli altri, appunto come ha detto lei prima, l'indifferenza della gente o non valorizzare appunto certe cose che per me invece valgono tanto. Quindi Il Traguardo vuol dire questo. Certo, allora ascoltiamoci questa tua canzone, Gianluca Corrao con Il Traguardo. Grazie. Sapevo che un giorno avrei dovuto dire che tutto all'inizio sembra più spento e se vedi già la fine. Ti chiedo scusa quando mi sembra che stiamo rallentando, ma quando rallento cerco il mio salto se vedo già il traguardo. Se quando abbraccio mio figlio si sente al sicuro come mi sentivo io davanti a mia madre che adesso non c'è ma c'è. Sappiamo partire, sappiamo scappare, sappiamo che tutta la strada che abbiamo già fatto non può ritornare. Sappiamo partire, sappiamo restare, restiamo fermi solo per amore. E dimmi che non c'è un po' di bene che poi torna, tanto non ci voglio credere, se tutto è vuoto sono pieno di te. luce accesa nel tramonto. Tutto resti in ogni sbaglio, come le pietre sotto la luce sembrano corallo. Voglio che tutto è sempre più bello mentre lo sto vivendo. Lungo la strada corro più forte se vedo già il traguardo. Se quando guardo mia moglie si sente tremare come tremo adesso io, mentre ci guarda mia madre che forse non c'è ma c'è. Sappiamo soffrire, sappiamo lottare, sappiamo che tutto l'amore che abbiamo già dato non può ritornare. Sappiamo capire, sappiamo sognare, restiamo fuoco solo per amore. E dimmi che non c'è un po' di bene che poi torna, tanto non ci voglio credere, se tutto è vuoto solo pieno di te. E dimmi pure che non c'è la luce accesa del tramonto, ma io ci voglio vivere, le carezze date quasi come respirare. Amico solo di tenerci stretti, che pelle su pelle fa sognare i sogni, che unendo i sorrisi nasce una collana, che la vita non è mai lontana. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24 con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Un po' rap, un po' pop, un tu po' rap, un po', po' pop, esatto, un po' che... l'ho sentito un po' più vicino al mio, a quello che è poi il mio stile. Mi è piaciuto un sacco anche il fatto della base fatta a piano, molto semplice. E la sua voce ben studiata, con una cadenza che non seguiva quella del piano, andava un po' più veloce, questo tempo lento sotto e il suo modo di rappare un po' più veloce. Lisa, te come... Io vorrei fare solo un gesto, che è un cuore con le mani, perché mi stavo mettendo a piangere finché sentivo la canzone. Cioè, proprio emozionante, bello, si sentiva che proprio era un qualcosa che viveva sulla sua pelle, quindi per me questa cosa è bellissima. Cioè, proprio quello che conta di più per una persona che scrive canzoni, parlare di ciò che sente, perché poi alla fine è quello che arriva alla gente. Ilaria. Testo tanto profondo. Comunque, per chi volesse, c'è anche il video su YouTube che è molto bello, quindi mi sta piacendo tantissimo. Sì, volentieri. Ringrazio il regista Andrea Vialardi, che è un mio carissimo amico, che già dal singolo precedente Genova 93 e questo abbiamo nata questa collaborazione e sono contento perché anche il video dà il suo contributo al brano, quindi sono felice comunque che piaccia. E cosa dire, il brano sta passando su tantissime radio che non me l'aspettavo, anche classifiche radio dei brani più trasmessi nella settimana. Sono contento perché appunto quando ci metti il cuore, passione e racconti le tue emozioni in musica, quando tieni dei bei riscontri, è come si dice, la ciliegina sulla torta, sono ancora più contento, quindi grazie ancora. Io corro perché abbiamo ancora non moltissimo tempo, però vorrei far ascoltare anche quella bella canzone che ci tengo, che è Genova 93. Ecco. Non immaginavo. Questo inserimento del abbinamento del pop con il rap. Qualcuno dice sì, ci diciamo, sta, qualcuno no, tu oggi però velocissimo, tu oggi mi dicevi sì, un po' la tua. Diciamo che appunto il rap ora come ora è la musica che sta andando tanto di moda. Io il rap non è che è il mio genere, è il genere di mio figlio, però so che se fai un pop rap con dei sentimenti, dei messaggi positivi dentro può anche funzionare. Quindi sono contento perché anche Genova 93... è un bel brano che è piaciuto, è uscito l'anno scorso, sempre verso questo periodo qua. È un racconto padre e figlio degli anni 90, mio figlio ha quasi 16 anni, che li fa febbraio. Io negli anni 90 ero più o meno adolescente, avevo 17 anni quell'anno lì, E diciamo è un racconto che il padre vuole fare a suo figlio di una generazione completamente diversa, appunto del giocare a palla in piazzetta, delle compagnie in piazza e di apprezzare appunto le piccole cose che ora i ragazzi hanno un po' tutto e non hanno niente, non si accontentano mai, no? Certo. Telefonini, computer, social, una volta si stava più in compagnia con la gente e si ci parlava di più fuori, c'era questo proprio stato d'animo che era più bello secondo me. Poi appunto l'ho voluto raccontare nel brano, raccontandogli anche i miei sbagli che uno può fare, ma giustamente ognuno c'ha il proprio percorso, quindi mio figlio farà poi la sua strada, quindi sono contento così. Bene, allora io adesso passerei a Carlo, anche perché ha un qualcosa che lega a te, Gianluca, anche lui ha un qualcosina. Sì, esatto. Carlo, allora la tua canzone Dove sei? Vogliamo parlarne sì. un... Dove sei nasce principalmente dai primi versi di rap che scrivo. Infatti io ho iniziato facendo cover, scrivevo nella mia stanzetta, è come sorta di diario segreto, scrivevo questi pezzetti rap. Poi ho deciso di iniziare a scrivere, sono andato in uno studio, mi sono fatto insegnare, anzi ringrazio con l'occasione la MM Line Production. Mi ha dato Maria Totaro. Esatto. Mm. Mi ha dato l'opportunità di imparare a scrivere, allora ho ripescato tutti questi versi di rap che scrivevo per sfogarmi, essendo io comunque un carattere un po' timido, chiuso a primo impatto. Da qui è nata questa prima canzone che parla di è una storia d'amore principalmente, finita, in cui si analizzano gli aspetti che sono andati male, quindi non è che ha sbagliato solo l'altro se è finita certo. La relazione. Qualcosa si deve aver sbagliato anche da sé. C'è la voglia di riconquistare l'altra persona, di rimettersi in gioco e insomma si capisce poi dalla canzone ascoltandola. E allora andiamo ad ascoltare questa tua canzone, ok? Carlo Borghesio con Dove sei? Dove sei? Non so neanche se mi ascolterai. Capirei, io di me non ti ho parlato mai. Ora sei così distante, colpa delle mie mancanze, il silenzio tra me e te. E pensare a quell'istante mentre svuoti le tue stanze e uno sguardo non c'è. Aspetto un tuo segnale, cercherò di rimediare, rispondendo ai tuoi perché. Sarà l'orgoglio come un'onda che sbatte sullo scoglio, perché sei forte, che sei come roccia, ma so che ti può scalfire anche una goccia di pioggia. E la notte, sai, ti penso, quante volte ho promesso che il mattino seguente non sarei stato lo stesso. Ma ora parto e ti cerco perché ho scoperto me stesso. se mi ascolterai. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24 con trasmissioni d'attualità, di cultura ed impegno sociale. Allora, Gianluca, tu hai sentito la canzone di Carlo? Sì, sì, molto orecchiabile, carina, molto carina. Sì, c'è appunto questa piccola parte rappata che dicevo, la collego un po' anche alla sua canzone. Esatto. Bene, io vorrei però ritornare un attimo su Ilaria. Cosa dici, Ilaria? Io vorrei farti cantare, citerei di farti cantare quella canzone. Questa canzone di Laura Pausini, no? Mm-hmm. Ecco, che io ti ho sentito a cantare in occasione di questo concorso musicale, ed è lì che appunto ci siamo conosciuti e lì mi hai trasmesso appunto questa emozione. Io voglio dire una cosa, Ilaria canta questa cover, però la canta dal vivo. Sì. Siate clementi. Sì, sì, saremo sicuramente clementi e sarà veramente meraviglioso poterti sentire cantare, perché tu lo sai, ne abbiamo parlato anche oggi del tipo di lavoro che faccio e tanti non hanno più avuto nessuna possibilità. Tu invece l'hai avuta e cerchi di trasmetterla agli altri. Quindi penso che sia una cosa molto forte, un segnale molto forte che tu vuoi dare a te stessa, ma soprattutto a tutte le persone che possono farcela. Sì. Brava. Ok, Ilaria. Allora, se tu sei pronta, io farei partire la base. Ok. E ascoltiamo la tua meravigliosa voce. Dimmi scusa anche per quello che sono. Spostati almeno e non provarci mai più. Quando di nuovo provo a rimettermi in piedi e tu che mi chiedi cosa mi resta di me, cosa mi porta a sbatterti in faccia il dolore? Non c'era posto migliore. Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via. Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia, non ti accompagno più se non c'è più ragione. Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà. Ecco il mio cuore sfinito da quanto è capace. Sempre ostinato, sempre la copia. Poi ti ho perduto nell'alba gelata di ottobre. Non c'era giorno migliore. Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via. Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia, non ti accompagno più se non c'è più ragione. Si muore in mezzo a una fiera. pace, veloce che poco mi basta. La rabbia finisce l'arrivo, è poco in valigia la cosa che resta. Quanta violenza hai sprecato in quel lasciami andare. Non c'era frase peggiore. Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via. Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia, ricordati di dirmi che va tutto bene. Si muore in mezzo a una frase o di frasi a me. Dico una cosa, io non amo la Pausini, non è il mio genere, però ti sei cercata proprio un testo giusto e mi è piaciuto chiudere gli occhi a un certo punto, perché era come se fossi un po' entrata in un po' in sintonia con te, perché sentivo quello che tu sentivi finché stavi cantando e quindi penso che brava. Sì. Sei sulla strada proprio super giusta. Brava, continua così. Mi hai fregato. Gianluca, allora. Sì, dicevo, brava, continua così, continua a lottare, crederci, quindi sei nella strada giusta comunque, dai, va bene. Prendiamo l'impegno anche, Prendiamo anche l'impegno. Mi manca qualche inedito. Gianluca, gli scriverai una canzone. Poi vedremo. sai che ti avevo detto anche oggi che tramite questa impostazione di programma ci sono due ragazzi che hanno creato una canzone alla distanza, si sono trovati, quindi chissà mai, Ilaria, che possa uscire un pochino qualcosa, no? Facciamo un bel gruppo, Sì. Siamo in chiusura perché devo passare un po' il microfono, la regia ad altri colleghi. Però Gianluca, io volevo chiudere la serata, tra l'altro Lisa, io spero di avere anche altre occasioni, spero presto, anche perché presenterai il tuo brano, però volevo fare ascoltare anche una canzone, la cover che tu hai messo in YouTube, perché anche, come si chiama, che non me la ricordo più, forse tu te la ricordi, la cover? Sì, Nothing Real But Love. Bravissima, perché anche lì hai un timbro di voce completamente diverso, completamente diverso, ma prende, anche quello prende, perché anche lì ti ho sentita cantare in una maniera con un timbro di voce diverso. Mi ci vorrebbe tre ore di programma per... le sfaccettature di tutte le persone sono belle per questo, sì. No? Sì. Gianluca, io vorrei fare ascoltare questa canzone e dopo passare ai saluti finali un po' di tutti noi. Mi vuoi parlare di questo Genova 93? In pratica, grosso modo, già hai detto qualche parola. Tra l'altro voglio dire anche una cosa importante. Tu l'hai mandata in pratica in commercio l'anno scorso, no? Un anno, se non mi sbaglio. Sì, l'anno scorso è uscito questo brano assieme a un disco che, se me lo permetti, è anche distribuito self in tutti i negozi, parte di me, sia su Feltrinelli e Mondadori, quindi a livello nazionale, per chi lo volesse comprare, c'è anche la copia fisica in negozio. Quindi è stato, diciamo, un sogno anche vedere il disco insieme ad artisti famosi e alle varie Feltrinelli in Italia. L'ho trovato, quindi sono contento perché ho raggiunto un obiettivo, un sogno che avevo da piccolino, entrare in un negozio di dischi e vedere anche il mio disco, diciamo, in mezzo agli altri. Quindi sono contento anche di quel risultato. Certo, che possiamo dirlo, nel giro di un anno la tua canzone ha 50.000, quasi 50.000 visualizzazioni, e non sono poche. Sì, diciamo sì, no, che Genova 93 su YouTube c'ha 400.000 visualizzazioni. 400.000, sì, scusami, 400.000. Sì, e vabbè, il traguardo è uscito da un mese, c'ha più di 80.000 visualizzazioni, sì. Quindi sono contento perché nel mio piccolo, diciamo, con tutto, appunto, il mio messaggio è sempre crederci sempre, essere sempre se stessi e raccontare appunto dei messaggi positivi, tutto che siamo genitori, no? Ai nostri figli diamo, dobbiamo dare anche un buon esempio, un messaggio, no, per il loro futuro, certo. Se no che siamo genitori a fare. Quindi anche Genova 93 è un racconto che io ho voluto fare anche dei miei errori e delle mie difficoltà che avevo in quegli anni. Quindi ognuno di noi abbiamo i nostri alti e bassi, no? Quindi le nostre anche difficoltà, io ho avuto un'infanzia difficile, quindi, e sono contento che mio figlio non ce l'ha. Quindi, però posso dire che ora sono contento e felice. Quindi la canzone Genova 93 parla anche di quello. Ecco, io voglio chiudere, sì, perché io ho voluto chiudere con questa canzone, proprio con Genova 93. Quindi ascoltiamoci questo brano, poi torniamo in diretta per i saluti finali. Gianluca Corrao con Genova 93. Vedi amore mio, la vita va così, tu della mia storia che ne sai, come ero io ed arrivato qui per difendermi. Eppure amore mio, Genova è così, è bella ma è difficile per me. Non sono figlio di un uomo come te e tu sarai migliore. Quanta gente ti cercherà, provocherà e tu stai lontano. Quanta gente ti cercherà e tu dai la mano. Cerca in tutto un po' d'amore, amore anche per me. Cerca di essere te stesso, guarda sempre avanti e non voltarti indietro mai. E cerca di essere migliore, cerca di essere migliore, cerca di essere migliore anche di me. Vedi amore mio, fare come me, era Genova 93. Credimi ero io a sentirmi più forte per difendermi. Eppure amore mio, mi hai salvato tu dalla strada e dalla noia. La violenza è nata gioia e poi sei nato tu. Quanta gente ti cercherà, provocherà e tu stai lontano. Quanta gente ti cercherà e tu dai la mano. Cerca in tutto un po' d'amore, amore anche per me. Cerca di essere te stesso, guarda sempre avanti e non voltarti indietro mai. Cerca di essere migliore, cerca di essere migliore, cerca di essere migliore anche di me. Vorrei mio figlio amasse prima di parlare, perché l'odio fa più male quando è il cuore a sanguinare. Vorrei vederlo libero di testa, senza preconcetti, pregiudizi vecchi fatti a pezzi nei cassetti. Muovere i suoi passi e migliorarsi negli errori, perché chi sbaglia paga ma soffrono i genitori. Amore mio, ti voglio sveglio che sto mondo è infame, e a volte vedi tutto nero come il cielo se il sole scompare. Cerca di essere migliore, cerca di essere migliore, cerca di essere migliore anche di me. Cerca di essere migliore, cerca di essere migliore, cerca di essere migliore anche di me. Rieccoci qua, Gianluca, ci sei? Sì, ogni volta è sempre una grandissima emozione sentire questo brano, quindi non mi stancherà mai, sono contento di averlo realizzato. È una bella canzone, cioè non voglio sminuire le altre, per carità, perché io senz'altro non è questo il concetto. Devo dare un messaggio che amo da morire mio figlio, quindi è la cosa più importante della mia vita. Allora, tra l'altro, nei saluti finali, visto che avete tutti e tre dei figli. Carlo, ti auguro di averli presto. Ma non troppo presto, perché sennò tra un po' esce ti maledice. Allora, visto che anche, loro, come mia figlia Martina, fanno parte veramente in maniera forte delle nostre giornate, della nostra vita, vorrei che ognuno di voi facesse anche un saluto a questi ragazzi che magari vi stanno ascoltando. Liberty. Beh, che dire, saluto la mia ragione di vita principale, Samantha, e presto sarà Natale e presto vi farò gli auguri in una maniera speciale proprio con lei, e quindi se avete modo di seguirmi su Instagram mi trovate come Liberty1984 e su Facebook come Liberty con le Y, mi raccomando tutte Y perché le cose normali non ci piacciono, e sul canale YouTube appunto, e lì vedrete presto novità. Insomma, lei poverina mi sostiene, mi supporta e mi sopporta sempre ed è un po' la mia complice in tutto, e quindi guai se non ci fosse. Liberty, sei una grandissima, perché voi dovete sapere che lei non ha voluto dirlo, ma il messaggio era per me. No, era per un po' tutti sbagliano, allora io sottolineo. Ilaria. Spero che siano a letto. Comunque, saluto i miei due bimbi di 5 anni, Gianluca, e di 7 Giulia, quelli che hanno collaborato a farti tornare la voce. Sì, sì. Allora, speriamo che collaborino ancora di più, ti facciano arrabbiare molto e così ti alleni. Gianluca. Sì, cosa dire, il figlio, vabbè, è di là che sta parlando con la sua ragazzina, quindi anche lui, vabbè, un saluto e un bacio a mio figlio Davide, che è la ragione della mia vita, quindi vabbè, comunque anche buon Natale ai figli di Liberty e di Laria, quindi che sia un sereno Natale veramente per tutti. Una ci tiene, attento, perché non dobbiamo sbagliare con Liberty, Gianluca. Uno. Per il momento uno, speriamo di non averne altri sparsi in giro. Perché... No, dicevo ai bambini di Laria e alla bambina di Liberty, dai. Allora, io ringrazio Ilaria, ti ringrazio tantissimo, non serve che ti aggiunga altro. Ringrazio anche tuo marito Stefano, che anche lui ha contribuito moltissimo per i figli ma anche di starti vicino in questi momenti, no? Stefano, Liberty, io ti ringrazio. Grazie veramente di cuore, voi. Felicissimo di avere scoperto anche un qualcosa ancora di più di te, è stata una bella serata, piacevole di averti qui con noi, un caro saluto anche ad Antonio. Certo. Carlo, noi ci siamo già visti in un'altra emittente tempo fa, ma come ti ho detto è stato un piacere di averti anche qui, di darti questa possibilità, e con tutti voi ci sentiremo presto. Gianluca. Sì, pronto, ti sento, stavo ecco. Quindi un saluto anche a te, un ringraziamento, grazie di essere stato con noi, perché rimanere a voi. Al telefono per più di un'ora non è mai una cosa così semplice. però è stata un'ora e passa che è scivolata bene, perché c'erano dei bei messaggi da dare e dei bei contenuti, quindi sono contento, certo, di essere stato con voi, di aver condiviso questa ora e mezza. Certo. E spero di averti qua anche te in studio, magari chissà mai, assieme a Liberty, a Carlo e a Ilaria. Molto volentieri. Visto che abbiamo condiviso la serata. Molto volentieri. Ok? Io vi ringrazio, vi auguro buon Natale a tutti voi. Grazie. Buon Natale davvero. Buon Natale Gianluca, buone feste. Grazie. Genova ne ha bisogno, perché veramente speriamo Genova in un 2019 positivo e sereno veramente per tutti. Certo che sì. Ragazzi, vi ringrazio. Buonasera, ciao, buone feste. Ciao. Vi vogliamo bene. Grazie ciao a tutti. Ciao. Ciao, buona musica.